You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentrovati a Indovina chi viene a cena. Questa trasmissione va in onda stasera senza firma, aderendo allo sciopero delle firme proclamato dall'Assemblea di Radio 24 ieri. Il nostro ospite, la nostra ospite, ha origini straniere e si è fatta largo in Italia per le sue capacità. Stiamo parlando di una studentessa. Io do il benvenuto alla nostra ospite Sofia Mao. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, lei è una studentessa molto giovane, di origini cinesi, diplomata al liceo classico, studia medicina se non sbaglio. Sì. Prima alfiere del lavoro di origini cinesi in Italia. Complimenti innanzitutto. Grazie. Allora, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scandito il suo nome, quello di un altro ragazzo di origini straniere che era presente in sala, prima della cerimonia ufficiale per introdurre questo tema dell'integrazione. Per questo l'abbiamo chiamata. Un'emozione nell'emozione, quindi. Esatto. Com'è andata? È stata una sorpresa perché non ce l'aspettavamo né io né Amin, l'altro ragazzo di origini straniere, e è sicuramente un riconoscimento che fa piacere. Come l'ha saputo? Allora, prima di tutto, durante il secondo semestre la scuola mi ha contattata per chiedere il mio permesso per segnalare il mio nominativo e... Durante la fine dell'estate ho ricevuto una lettera a casa con l'intestazione della Federazione dei Cavalieri del Lavoro. Caspita, che emozione! Esatto, ero da sola a casa e penso di essere stata 10 minuti buoni a fissare quella busta senza avere il coraggio di aprirla. Immagino. Poi l'ha aperta? E ho visto che ero stata nominata fra i 25 Alfieri del Lavoro 2016 e è stata... Prima una sorpresa perché ci sono tantissimi ragazzi bravi in Italia e che hanno anche voti altissimi, perciò anche se la speranza c'era sempre non ci contavo molto. E poi è stata sicuramente una gioia e ho fatto una foto, l'ho mandata a tutti i miei amici, i miei parenti. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro, dicevano che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena, mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male, buffo, non sono dare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Quindi 25 neodiplomati provenienti da tutta Italia, tutti usciti dalla scuola superiore con 100 o con 100 e lode, giusto? Esatto. E fra loro 25 c'eravate almeno due di origini straniere, lei e questo giovane studente Amindi. Che origini? Marocchine. Che media aveva lei al liceo, Sofia? 9,69. Insomma, altissima. Abbastanza, c'era chi ce l'aveva più alta. Ha stretto la mano al presidente Sergio Mattarella. E come è stata questa premiazione? Era emozionata? Cosa le ha detto Mattarella? Sì, è stato tutto molto surreale, sia il fatto di arrivare davanti al Quirinale, sia di entrare nella sala dei corazzieri. La premiazione è stata anche un'emozione dal punto di vista proprio pratico, proprio perché c'era tutto un cerimoniale da seguire per l'alzarsi, mettersi in fila, andare sul palco, stare attenti a non inciampare con i tacchi, e poi dovevamo anche seguire un ordine nello stringere la mano sia al presidente che alle altre autorità. C'era un protocollo formale da seguire. Esatto. E questa responsabilità di rappresentare in qualche maniera anche le persone straniere, di origine straniera, italiane ma di origine straniera, lei la sente, le pesa o la inorgoglisce? Non ho la presunzione di sentirmi davvero una rappresentante della comunità straniera, proprio perché questa onorificenza mi è stata conferita non guardando la mia cittadinanza, ma solo la media scussa del liceo. E quindi secondo me questa è una prova di uguaglianza, cioè che non hanno guardato in faccia a nessuno, hanno solo guardato i nostri meriti scolastici. E quindi secondo me è una prova del fatto che la meritocrazia esiste. La spiaggia, il profumo di una vela, il sole che mi scalda, le onde in movimento, profumo di abbronzante che si espande nel vento. The ocean and the girl so sweet, so kick off my shoes and relax. Lei a scuola seguiva, immagino, tutte le materie con profitto, ma quali sono le sue materie preferite? Quali erano le materie preferite al liceo, perché ormai è l'università? Sì, allora, sia le materie scientifiche, ma ora che le studio a medicina sento anche la mancanza delle materie più umanistiche come il greco e il latino. E poi anche l'inglese era una materia che mi piaceva molto. Non mi piaceva molto era motoria, probabilmente. Cioè, riuscivo bene anche in educazione fisica, però i test di educazione fisica erano quelli che mi spaventavano più di tutti, più delle versioni di greco. Senta, com'è andata l'incontro con Mattarella? Che impressione ha avuto? È stato molto gentile, molto disponibile. Anche dopo la fine della cerimonia, durante il rinfresco, si è intrattenuto qualche minuto con i ragazzi per farci complimenti e per scambiare due parole. Quindi è stato un onore. Ci fermiamo brevemente, Sofia, e torniamo con lei a raccontare la sua storia, ma anche e soprattutto i suoi successi scolastici tra pochissimo. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Torniamo in onda con Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con una studentessa che ha ricevuto dalle mani di Mattarella il premio come alfiere del lavoro. Sofia Mao è una giovanissima studentessa universitaria, ha ricevuto questo premio nell'autunno scorso proprio per il suo successo a scuola. Lei ha detto che non si sente di rappresentare i ragazzi di origini straniere, però sicuramente è un bel esempio aver avuto questo riconoscimento per voi, per tutti i ragazzi di origini straniere che studiano in Italia. Sì, non vorrei però essere additata in assoluto come un esempio, perché sono comunque partita da una posizione diversa rispetto ai miei connazionali. Perché io ho avuto fin da piccola un'educazione italiana, infatti non parlo neanche cinese e quindi non ho avuto l'ostacolo della lingua che invece hanno molti ragazzi che arrivano in Italia già grandi. E ci racconti allora un po' della sua storia. È nata in Italia? Sì, a Pontedera, da entrambi i genitori cinesi, e sono stata mandata in Cina dai miei nonni quando avevo meno di un anno e sono restata fino a quando mia sorella minore, una delle mie sorelle minori, è stata presa in affido da una signora italiana, Paola, e che ha insistito per far tornare anche me in Italia proprio per darci le stesse opportunità. Quindi lei e sua sorella siete state cresciute da una famiglia italiana? Sì, da una signora italiana. Sofia ci stava raccontando che è stata cresciuta, lei che è di origini straniere, cinesi, da parte di mamma e papà, da una famiglia italiana in realtà, lei e la sorella. Questa è stata una decisione, anche le altre sorelle. Una decisione che le ha rivoluzionato la vita, immagino. Sì, sicuramente non sarei qua se non fossi stata presa in affido. Lei è convinta di questo? Sì, perché probabilmente sarei in Cina in questo momento. Perché i genitori naturali l'avevano rimandata in Cina, no? Sì. Lei ha mantenuto i rapporti con la famiglia naturale, no? Sì, esatto. L'affidamento funziona così, cioè che serve anche per migliorare i rapporti con la famiglia di origine. E al momento questa famiglia allargata come funziona? È molto bello perché si sente proprio il legame che ci unisce, che non è solo di sangue. Per esempio, in questo momento a Padova sono ospite dai parenti della mia madre affidataria, quindi non abbiamo assolutamente legami di sangue, ma per me sono come i miei zii e i miei nonni acquisiti. Inoltre anche i genitori dell'ex compagno della mia madre affidataria continuano ancora adesso ad essere i nostri nonni, sia per me che per le mie sorelle. E invece come funziona con la sua famiglia di origine, la famiglia biologica cinese dalla quale lei proviene? Sì, noi abbiamo sempre coltivato questo rapporto, infatti tutte le scuole, dalle scuole elementari al liceo, le abbiamo frequentate a Pontedera, che è la città in cui i nostri genitori naturali vivono, proprio perché così ogni giorno potevamo vederci. Quindi è positivo anche il rapporto con loro? Sì. Lei ha la cittadinanza italiana? No, purtroppo no, perché per un cavillo burocratico, proprio per quei mesi in cui sono stata rimandata in Cina da piccola, non ho la continuità di residenza dalla nascita ai 18 anni e quindi non ho potuto prenderla automaticamente. È addirittura stata premiata fra i 25 migliori studenti in Italia, parla italiano, vive in Italia, è cresciuta in Italia, si sente italiana, no? Sì, prevalentemente sì. Io non mi sento diversa dai miei amici o dai miei compagni di scuola, che quando li vedo non vedo assolutamente cosa ci separi, sia il fatto che abitiamo qua, che studiamo qua, abbiamo amici e parenti. E l'unica cosa che mi separa da loro è il fatto di non poter votare, non avere le stesse opportunità, per esempio, per borse di studio o altri benefici, e il non poter viaggiare liberamente. Che non sono diritti da poco. Esatto. Cosa ne pensa di questa legge tuttora bloccata sulla cittadinanza delle persone di origine straniera, dei giovani come lei cresciuti in Italia? Sarebbe molto positivo se riuscisse a passare, proprio perché noi ragazzi non siamo diversi dalle nostre controparti italiane, ma siamo semplicemente nati in un'altra famiglia e abbiamo un passaporto diverso. Ma tutta la nostra vita è qua e quindi se siamo rimasti qua fino ai 18 anni significa che vogliamo comunque restarci e ci piacerebbe appunto avere gli stessi diritti. Che cosa vede nel suo futuro? Adesso lei studia medicina. Sì, il mio sogno è diventare un medico, possibilmente anche avere un ruolo nel campo della ricerca. Mi piacerebbe inoltre poter studiare all'estero. Ha mai vissuto sulla sua pelle un pregiudizio? Si è mai sentita vittima di pregiudizio, magari per una frase, un'occhiata, qualcosa che l'ha turbata e l'ha fatta sentire diversa? Allora, per fortuna a scuola non mi sono mai sentita discriminata. I problemi, se si possono definire così, sono sorti solo in occasioni sporadiche, per esempio per strada, quindi con magari frasi ironiche o commenti non gentili. Non appropriati. E come si è difesa da questi pregiudizi, da questi attacchi? In genere li ho ignorati perché sono comunque commenti di persone che non mi conoscono e quindi la loro opinione non ha nulla a che vedere con me. Penso che sia qualcosa che bisogna lasciarsi passare addosso, perché non è qualcosa che riguarda noi, ma semplicemente chi ha rivolto l'insulto. Certo che è squallido quando la gente dice la parola, per esempio, cinese, quindi semplicemente un aggettivo, una nazionalità, come se fosse un insulto. È qualcosa che può essere vissuto male. E con la Cina che rapporto ha oggi? Io da quando sono tornata in Italia, sono stata in Cina solo una volta, nel 2007, per visitare i miei nonni. Provo una grande ammirazione per la cultura, per le opere d'arte che ci sono, ma purtroppo non la conosco molto a fondo. E inoltre in questo periodo sto cercando ora di iniziare a imparare il cinese, proprio perché i miei genitori non me l'hanno mai insegnato. E non averglielo insegnato, crede che sia stato un errore oppure è stato di aiuto per l'integrazione in Italia? Io penso che sia stato un errore, ma i miei genitori l'hanno compiuto con le migliori intenzioni possibili. Tutti gli altri ragazzi cinesi che conosco conoscono almeno il cinese parlato o un dialetto, ma io ho avuto appunto una situazione particolare con l'affidamento. In ogni caso, sì, i nostri genitori hanno pensato che ci avrebbe potuto aiutare ad integrarci e si sforzavano loro stessi di parlarci italiano nonostante loro lo sapessero male. E invece si sono resi conto dopo che in questo modo ci stavano togliendo un'opportunità, ovvero di imparare una lingua madre in più. Sofia, grazie per essere stata a cena a Radio 24. Io non le ho chiesto che piatto ci ha portato perché so che lei non ama molto cucinare. Esatto, non sono capace. Però se avesse dovuto preparare o mangiare piuttosto qualcosa insieme a noi, so che sarebbe stato un dolce. Esatto. Ravioli dolci cinesi. Ingredienti per circa 25 ravioli. Per la sfoglia, 150 g di farina 00, un uovo, 30 g di burro fuso, un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai e mezzo di acqua. Per il ripieno, 30 g di arachidi non salate, 3 cucchiaini di semi di sesamo, 3 cucchiaini di cocco disidratato, 5 cucchiaini di zucchero. Preparate innanzitutto la sfoglia. In una ciotola setacciate la farina, al centro versatevi l'uovo intero leggermente battuto, il burro fuso freddo, lo zucchero e l'acqua. Amalgamate inizialmente con una forchetta, quindi con la mano, ed infine impastate bene sul piano da lavoro fino ad avere un composto liscio e compatto. Coprite con la pellicola e lasciate riposare l'impasto per 30 minuti. Nel frattempo iniziate a tostare le arachidi a fuoco medio in una padella antiaderente per 5 minuti. Quindi tostate i semi di sesamo per 3 minuti ed il cocco per 1 minuto. Pestate grossolanamente le arachidi, quindi unitele al sesamo e al cocco in una ciotola insieme allo zucchero. Riprendete l'impasto e stendetelo con il mattarello sul piano di lavoro appena infarinato. Con un tagliabiscotti da 7 cm di diametro, ricavate i dischi, riutilizzando gli scarti di sfoglia, dopo averli fatti riposare nella pellicola ancora 30 minuti. Ponete al centro di ciascuno un cucchiaino di impasto e chiudeteli a mezzaluna, prima sigillando bene i bordi e poi pizzicandoli nella maniera tradizionale. Friggeteli in abbondante olio caldo a temperatura media, fateli asciugare su carta e serviteli magari anche con una spolverata di zucchero a velo. Servite tiepidi. Grazie per essere stata con noi a Sofia Mao, okay. Studentessa. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a tutti. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.